Preghiamo insieme. Padre, noi ti ringraziamo per quello che tu vuoi dirci questa mattina e ti chiediamo nel nome di Gesù di aprire le nostre orecchie, di aprire i nostri cuori e le nostre menti affinché possiamo ricevere tutto quello che tu hai già dato a Saverio e hai dato a lui responsabilità oggi di trasmetterci. Grazie Gesù. Amen. Grazie pastore. Buongiorno Chiesa. Siamo stati in questi mesi stupiti da effetti speciali, giochi di prestigio, palloncini con le faccine. Io non voglio essere da meno, ma più che io voglio invitare un esperto di esperimenti. Vi prometto che non vi faccio esplodere, ok? Esperto di esperimenti, Gioele. Vi devo dire, speriamo che l'esperimento vada a buon fine, perché se è un esperimento non è detto che vada a buon fine, ok? Sei pronto, Gio? Allora, presentiamo questi due sgabelli che legano praticamente una corda. E lì c'è un palloncino. Vediamo che cosa succede quando Gioele, c'è anche una molletta che tiene il palloncino, toglie la molletta dal palloncino. Vai, Gio. Esperimento riuscito! Grazie. Grazie Gioele, ottimo esperimento. Il palloncino è andato da un lato all'altro lato. Sapete, questo in fisica si chiama terzo principio della dinamica e dice che un corpo, nel momento in cui viene sollecitato da un'azione, ha una reazione uguale e opposta. Allora, ragazzi in seconda fila, avete imparato oggi con un esperimento il terzo principio della dinamica. Quindi, tutti promossi, tutti convotiati, ricordatevi di me, ok? E guardando questo esperimento un giorno, Gioele ne fa tanti, ha avuto questo regalo e gli piace fare esperimenti, guardando questo esperimento ho pensato alla nostra vita. E ho pensato che esiste un nesso causa e azione nella nostra vita. E ho cercato di riportarlo, ma non è così semplice, perché qui si tratta di un principio che prevede qualcosa di animato, una molletta e un palloncino. Per noi è un po' diverso, perché noi siamo dotati di emozioni, pensiamo, riflettiamo, e quindi a ogni azione reagiamo in modo diverso. Ma sicuramente noi crediamo che a ogni azione che noi facciamo può corrispondere una conseguenza. Sapete, noi non crediamo nel karma. Il karma dice che ogni azione porta una conseguenza, al punto che se noi riusciamo a trovare l'equilibrio nelle nostre azioni, abbiamo ottenuto il top. E le religioni orientali applicano questo principio dicendo che in un'altra vita chiamata reincarnazione, se noi abbiamo agito bene, saremo meglio. Noi non crediamo in questo, perché la Bibbia dice qualcosa di diverso. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Che bello quando conosciamo questi versi a memoria. Io ho visto che ripetevate insieme a me. Ricordiamo e conosciamo quello che la Bibbia dice. Il peccato porta alla morte. Cioè le nostre azioni, per quanto noi vogliamo essere bravi, buoni e sforzarci, senza Dio conducono alla morte. Perché sotto la legge la migliore persona ha fallito. Ma c'è una buona notizia: sotto la grazia la peggiore persona può essere salvata. Fantastico. E dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. È la fede che ci fa agire. È la fede che ci permette di vedere la gloria di Dio e vedere gli effetti sulla nostra vita della grazia di Dio. E oggi parleremo di effetti negativi effetti positivi. Parliamo di effetti negativi, perché se io vi dicessi, provate a pensare a un'azione e una conseguenza negativa, è una conseguenza, ci verrebbe in mente sicuramente la conseguenza negativa. Quindi partiamo da una conseguenza negativa, presente nella Bibbia. Il re Davide, a un certo punto della sua vita, fa un censimento. Sembrerebbe qualcosa di innocuo. Il re Davide con il censimento ha un obiettivo: tracciare il numero di abitanti e il numero di persone atte alla guerra, quasi a voler dire, ma come siamo forti. Ora ci possiamo difendere, ora possiamo conquistare, ora il mio regno si può espandere. E Dio interviene e dice, a motivo del censimento che tu hai fatto, ci saranno delle conseguenze. 3 giorni di peste in Israele. 3 giorni di peste. Causa, conseguenza, orgoglio umano. Che cosa aveva fatto il re Davide? Non aveva più pensato, io dipendo da Dio. Aveva pensato, io dipendo dalla forza dei miei uomini, dalla mia forza. Guardiamo in modo pratico anche quello che può succedere. Magari pensiamo al nostro corpo, dato che domenica scorsa abbiamo parlato dell'importanza della cura del corpo. La Bibbia dice che noi siamo il tempio di Dio. Però, se io fumo, che cosa mi succede? Qualcuno potrebbe dire, ma è un vizietto, non faccio del male a nessuno. Inspiro in un modo o in un altro del veleno che mi fa male ai miei polmoni. Guardiamo la foto. Non lo dice la Bibbia, lo dice il pacchetto delle sigarette. Questa volta uso questo verso. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno. Azione, reazione. Io mi posso drogare, sappiamo quello che succede, potrei morire per overdose. Io posso usare alcol e il mio corpo sta male. Io posso nutrirmi bene e stare bene. Ora vi faccio vedere una foto che è un contrasto tra l'uso di droghe e alcol e il cibo salutare. Cocaina, alcol, crack, riso, patate e cozze. Allora, mangiamo sano, ma la domenica è bello mangiare riso, patate e cozze. Quante donne sanno preparare riso, patate e cozze? Ci sono anche uomini? Fantastico, facciamo un applauso. Benedette queste donne e questi uomini. Invitatemi a casa, perché riso, patate e cozze, come vedete, fa bene, ringiovanisce. Mentre l'uso, le dipendenze, l'uso di alcol, l'uso di droghe, ci fa deperire. Guardate, azione, reazione. Ora io un po' scherzato con il cibo, però torno serio, anche perché domenica abbiamo detto che dobbiamo mangiare in modo sano e io sono fortemente d'accordo con quello che è stato detto. Però delle volte, in un modo o in un altro, noi cediamo. Io vi parlerò di mia suocera. Ora, mia suocera ci segue, quindi io spero che non mi disconosca dopo quello che dico. Okay? Mia suocera cucina bene. E mia suocera è convinta che a casa sua, ma anche a casa di ognuno di noi, si mangi bene. Al di fuori non si mangia. E allora, quando noi andiamo in vacanza, è una guerra. Perché noi dobbiamo lottare con 2 cose. Dobbiamo fare attenzione a mantenerci in vacanza, ma non ce la facciamo, prendiamo sempre 2 chili. E quando torniamo a casa nostra, magari dopo una settimana di vacanza, incontriamo mia suocera e lei non dice come è andata, vi siete divertiti, è andato tutto bene. Sapete la prima domanda che fa qual è? Avete mangiato? E se noi rispondiamo sì, abbiamo mangiato, la seconda è siete sicuri? E se noi iniziamo a dire cosa abbiamo mangiato, lei esce fuori di tutto. Quindi 2 chili, più 2 chili da mia suocera, sono 4 chili, ok? Ecco perché poi il cibo ci fa male, ok? Esempio negativo di come ci si può ingrassare e poi anche di conseguenza avere malattia. Abbiamo visto in modo anche simpatico questi effetti negativi. Io adesso vi voglio parlare di conseguenze positive eterne sulla nostra vita. E c'è in modo particolare un capitolo della Bibbia, Ebrei 11, che parla di uomini e donne di fede che hanno visto cambiare la loro vita e la situazione intorno a loro. Sapete, la fede è come l'azione portata su quel palloncino. Il palloncino gonfio rappresenta le nostre paure. Quando le nostre paure vanno via e lasciamo fluire la fede, il nostro palloncino, il palloncino della nostra vita, va da un'area all'altra, da una zona all'altra. E noi oggi vogliamo vedere come, per fede, noi possiamo raggiungere e conquistare nuovi territori. Sapete, a dirlo è semplice. Per fede noi conquisteremo nuovi territori. Amen. A realizzarlo è più difficile, perché il palloncino gonfio non si vuole sgonfiare. Perché mentre noi abbiamo fede, ed abbiamo fede in Gesù, nel momento stesso in cui abbiamo fede c'è qualcosa che ci blocca e sono le nostre paure. Sapete, c'è una linea, mettiamo questa linea qui. Questa può essere una mia zona che chiamerò zona di comfort. In questo momento sto bene qui. Però Dio mi dice, vai oltre, cioè fai un salto. Immaginate adesso la sala buia, un salto nel buio. Non so, non conosco cosa sta davanti a me, ma io conosco la mia zona. E iniziamo a porci delle domande e dei dubbi. Ma se io vado oltre e seguo quello che Dio mi sta dicendo di fare, dove vado? Ma è sicuro che Dio mi sta portando lì? È sicuro che non è qualcos'altro? Magari è il mio desiderio. Come farò economicamente a realizzare il progetto che Dio vuole per la mia vita? E come farò? Perché ho una famiglia. Ma io non sono bravo abbastanza. Io sono più bravo a rimanere seduto sulla sedia. Sapete, la fede è azione, la fede è dinamica, la fede non è statica e Dio non ci vuole vedere lì fermi, Dio ci vuole vedere avanzare per fede. La fede è dinamica perché è scritto in Ebrei 11:1 che la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono, cioè è certezza di quello che umanamente spero. È dimostrazione, cioè io ti dimostro con la mia vita quello che Dio vuole fare quando intorno a me vedo solo deserto. Questa è fede. E le persone citate in Ebrei 11 vengono da alcuni chiamati eroi della fede. Io adesso desidero che ognuno di noi dica alla persona accanto, Dio ci vuole eroi. Sapete, gli eroi della fede non sono solo quelli scritti in Ebrei. Gli eroi della fede sono tutti quelli che per fede fanno la volontà di Dio. E sono quelli che, sfidando se stessi e accettando la sfida che Dio ha dato loro, superano le paure. Quali possono essere i nostri obiettivi, i nostri traguardi e quello che Dio ci mette davanti? Non necessariamente qualcosa di complicato, perché noi magari quando parliamo di nuove stagioni, nuovi traguardi, nuovi territori, pensiamo chissà cosa. Dio vuole realizzare una conquista nella tua vita, magari nella tua famiglia, magari per i tuoi figli, magari per i tuoi genitori, magari per i tuoi fratelli, e sta chiamando te a essere influente nella famiglia. Dio vuole portare qualcosa di nuovo nel tuo lavoro, dove vivi frustrazione, e vuole che tu possa diventare influente nel tuo lavoro. Quindi andiamo un po' più terra a terra, ok? E continuiamo. Dio vuole qualcosa di speciale per la tua scuola e sta chiamando te per influenzare tutta la scuola. Dio vuole che il tuo ministero possa andare oltre e tu possa guardare oltre, possa guardare le anime, cioè le persone che non conoscono Gesù. E Dio vuole darti qualcosa di nuovo e di fresco per la tua vita e per il tuo ministero. Questi sono nuovi traguardi, questi sono nuovi territori. E tra la nostra posizione di comfort e i nuovi territori, noi combattiamo il combattimento della fede. E contro cosa combattiamo? Contro i nostri dubbi e le nostre paure. Oggi parleremo in modo particolare di un personaggio citato in Ebrei, perché la lista è lunghissima. Vi voglio dare un indizio. È una donna. Qualcuno si vuole buttare? Guardate. Cosa vi ricorda questa cordicella rossa? Il muro di Gerusalemme, esatto. Rab. Ci sono due donne citate tra gli eroi della fede, Sara, moglie di Abramo, e Rab. Oggi parliamo di Rab, di questo esempio di fede, e leggiamo Ebrei 11, verso 31. Per fede, Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Oggi vedremo cinque caratteristiche della fede nella vita di Rab. La prima, la leggiamo subito. Rab, la prostituta, non perì con gli increduli. Rab, la prostituta, non perì con gli increduli. La Bibbia non ha problemi e non si vergogna, non ha paura, Dio non ha paura di, anzi, lo fa volutamente, di parlare di Rab, la prostituta. Sapete, Rab, ci sono due capitoli che parlano di lei e della conquista di Gerico, e sono Giosuè 2 e Giosuè 6, che avremo modo magari di leggere a casa perché sono fantastici. Li riprendiamo e vi voglio parlare di quello che sta scritto in Giosuè 2 e Giosuè 6. Rab abitava al confine di Gerico, su delle mura, e di professione faceva la prostituta. Era una donna che a un certo punto ha visto due spie mandate da Giosuè per esplorare le mura di Gerico, per poter conquistare Gerico, e li accoglie con sé, li accoglie a casa sua. Sapete, Rab era una donna come tante altre donne e uomini, che aveva un bisogno, quello di sentirsi libera. E un giorno, sta scritto in Giosuè 2, Rab, così come tutto Gerico, sente parlare del Dio potente di Israele, di questo Dio che ha fatto venire fuori dal Mar Rosso il popolo di Israele, liberato dalle grinfie degli egiziani. Se Dio è stato potente, così potente, da fare fuori gli egiziani, per noi non c'è scampo. E quella parola, quella leggenda sul popolo di Israele era forte in Gerico, tanto che sta scritto che tutti avevano paura. Anche a Rab era venuta paura. Ma Rab aveva qualcosa di diverso dagli altri abitanti di Gerico. Era fortemente curiosa di conoscere quel Dio di Israele. Tanto da vedere quelle due spie e portarle con sé. Le due spie nel frattempo si erano fatte riconoscere sicuramente da qualche guardia, quindi erano in una situazione di allarme, stavano scappando. Rab le ospita. Rab conosceva vita, morte e miracoli di tutti quelli che entravano e uscivano. E per il mestiere che faceva conosceva tutto, conosceva segreti. E sicuramente era in un modo o in un altro una spia anche del re. Tant'è che come entrano le spie di Giosuè da lei, arrivano i servi del re che dicono: ma tu hai dato riparo a quelle spie. Rab era molto conosciuta a Gerico. Rab conosceva tante cose. Conosceva quando le guardie andavano a riposare, conosceva quando si chiudevano, l'orario in cui si chiudevano le mura, conosceva tutto perché era lì. Era una fonte di informazioni preziosa. Perché Rab prende le spie e poi le nasconde dal re di Gerico e salva loro la vita? Perché Rab per prima voleva essere salva. Sapete da cosa? Dalla sua condizione. Lei era schiava del proprio lavoro, schiava del proprio corpo, non sappiamo se volutamente o perché costretta era lì. Fatto sta che è molto strano che lei abitasse sulle mura di Gerico, sicuramente gli era stato dato quel posto strategico per poter far circolare informazioni. Ma a un certo punto Rab sicuramente vive delle paure che non vengono scritte nella Bibbia, ma che sono umane. Cioè io sto ospitando queste due spie, se lo viene a sapere il re e se il re sa che stanno qui, che cosa succederà alla mia vita? Io sto ospitando queste due spie perché so che forse loro sono in un modo o in un altro la soluzione alla mia situazione. Perché se questo Dio è così potente, questo Dio di Israele è capace di fare fuori Gerico. E io però non voglio rimetterci le penne, io voglio essere salva. Questo Dio mi piace, io lo voglio conoscere. Ma mentre pensa a questo, vive delle paure. Che ne sarà della mia vita? E se quelle guardie mi uccidessero, e se quelle spie mi uccidessero? A un certo punto fa un patto con le spie, dice alle spie, allora, io vi ho ospitati, io faccio di tutto per salvare la vostra vita, voi mi promettete che salvate la mia vita quando Israele verrà, combatterà contro Gerico e il vostro Dio vi farà vincere. Mi prometti che salvi la mia vita e quella della mia famiglia? Ha delle paure, ha paura di morire. Sicuramente ha paura che quel patto fatto venga meno e che quella fiducia possa essere tradita. E seppure lei fosse salvata dalle due spie e dall'esercito di Israele, che cosa ne sarebbe stato di lei? Che fine avrebbe fatto? Gerico sarebbe stata, e lo vediamo nella Bibbia, rasa al suolo. Dove posso andare? Con loro? Posso vivere insieme a loro? No, perché io sono etichettata come prostituta e la legge dice non tollera la prostituzione. Per me c'è solo morte e condanna. Chi mi potrà accogliere? Il peccato abbonda, ma la grazia sovrabbonda. E Dio fa una cosa meravigliosa contro ogni logica umana. Rab, che in quel momento ha fede che Dio può fare qualcosa di grande e straordinario, crede, le spie sono al sicuro, le fa andare via in un momento propizio di notte quando tutti dormono, dice di nascondersi tra i monti, le spie riescono a salvarsi, le spie tornano da Giosuè, Giosuè e il popolo di Dio, dopo poco, va da Gerico, conquista Gerico e la vita di Rab è in salvo, non solo la sua, quella della sua famiglia, ma Dio va oltre, la grazia di Dio va oltre quelli che sono i nostri peccati quando noi per fede riconosciamo chi è Dio, va oltre. Rab entra miracolosamente a far parte della famiglia di Israele, non viene guardato il suo passato da prostituta, è strano, la legge dice tu sei condannabile? La grazia di Dio dice questa donna è appartata per Israele. E ancora più sorprendente, lei diventa l'antenata del re Davide. E dalla linea genealogica di Rab nasce Gesù. La grazia di Dio trasforma. La grazia di Dio può trasformare la nostra vita. Se non conosci Dio, la legge dice sei condannato. Dio dice, vieni a me e sei salvo. Non solo, ma io per te ho un futuro glorioso. Per te ci sono delle conseguenze eterne. Dove c'è morte, Dio mette vita. Sapete, al posto di Rab, ci potremmo inserire noi in Ebrei 11, dato che abbiamo detto che vogliamo essere eroi, e mettere il nostro nome e la nostra vita da peccatori. Perché Dio ha cambiato le nostre carte d'identità, così come ha cambiato la carta d'identità di Rab, la prostituta, a figlia di Israele. Così noi, da peccatori, a figli di Dio. Saverio, prima di conoscere Gesù, calcolatore, opportunista, egoista, bugiardo, ho fatto un incontro con Gesù e lui ha cambiato la mia vita. E guardando Dio giorno dopo giorno, ognuno di noi, come in uno specchio, ognuno di noi è cambiato e trasformato di gloria in gloria. La nostra vita non è più la stessa quando viviamo per fede. Punto 2. Quindi la fede cambia la nostra identità. La fede viene dall'ascolto. E riprendiamo quello che è stato detto domenica, quanto è importante ascoltare la voce di Dio. In Ebrei 11:6 è scritto che la fede serve per piacere a Dio, ma in Romani è scritto che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. La parola di Dio ci fa ascoltare, l'ascolto produce fede. Ascoltiamo la parola, ascoltiamola leggendo ogni giorno, ascoltiamola utilizzando l'app della Bibbia, che è fantastica perché la possiamo leggere e possiamo anche ascoltarla. Un giorno, è capitato spesso, vedo Enza lavare i piatti e sentire qualcosa. Ma che cosa sta sentendo? La radio? È strano. Era la Bibbia, era la parola di Dio. Guardate, non abbiamo più scuse. Quando noi diciamo non ho tempo per leggere la Bibbia, Dio interviene e trova la soluzione. Adesso è tempo. Ascoltala. Scarica un aggiornamento per ascoltarla. Ascolta la voce di Dio che parla nella sua parola. Ascolta la voce di Dio quando sei in adorazione, quando alzi le mani e sei lì e dici: Dio, parlami. Ascolta la voce di Dio nella tua cameretta, nella tua stanza segreta. Ascolta la voce di Dio tramite YouTube. Ascolta. E mentre ascoltiamo, punto 3, obbediamo. La fede è obbedienza. La fede ci cambia, la fede viene dall'ascolto, la fede è obbedienza. Obbedienza a Dio. E Rab? Leggiamo Giosuè 2, verso 11. Rab ascolta, appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno, per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Rab ha ascoltato e dopo aver ascoltato, cosa fa? Confessa, fa una confessione di fede. Il vostro Dio è Dio lassù, ma è anche il Dio della terra e anche il mio Dio. E in base a questa confessione di fede, Rab obbedirà a tutto quello che Dio le dice. Dio le fa sentire di nascondere le spie e lo fa. Rab obbedisce quando le spie le dicono: facciamo un patto. Tu salvi noi e ci fai scappare, noi salviamo te quando torneremo. Rab obbedisce quando le spie dicono: c'è un segno di riconoscimento che ci permetterà di capire dove abiti. Metti questa cordicella rossa che viene fuori dalla tua terrazza, dalle mura praticamente, di Gerico e scende. Con questa corda noi ricorderemo chi tu sei e sarai salvata tu e la tua famiglia. E Rab lo fa, lascia quella cordicella rossa appesa alla sua finestra. Rab obbedisce. Obbedisce alla voce di Dio e obbedisce a quegli uomini. Dio vuole obbedienza. C'è un passo della Bibbia molto conosciuto di un profeta di nome Giona che tutto ha fatto tranne che obbedire a Dio. Dio ha detto: vai a Ninive. Lui si è recato a Tarsis. Alcuni studiosi dicono che Tarsis sia, perché non si sa effettivamente dove si potesse trovare. Qualcuno ipotizza in Spagna, qualcun altro in Turchia. Però se immaginiamo la Spagna, immaginiamo l'estremità della terra, perché con la conoscenza limitata che aveva il popolo all'epoca, Giona stava dicendo: io vado, preferisco andare fino all'estremità della terra piuttosto che ascoltare la voce di Dio. Tante volte le nostre paure ci bloccano. Cioè, noi sappiamo ascoltare la voce di Dio, ma non riusciamo ad obbedire alla voce di Dio. Capita anche a me. Perché? Perché ci facciamo dominare dalle nostre paure, dai nostri preconcetti, dalla nostra sicurezza. Quel profeta era sicuro che Ninive non avrebbe creduto. Dice, piuttosto vado da un'altra parte. Quel brutto popolo che gli assiri che hanno fatto la guerra con noi. Ma no, non esiste. No, non esiste che Dio mi sta chiamando lì. È frutto della mia immaginazione che Dio mi ha detto di andare all'estremità della terra, perché io a un certo punto ho detto sì, però faccio un po' la marcia indietro. Non è forse Dio. Tante volte sono le nostre paure a non farci andare. E vi voglio dire una cosa. L'obbedienza a Dio, noi la viviamo quando riusciamo ad obbedire alle persone a cui siamo sottoposti. Obbedisci al tuo datore di lavoro, è una catena di tornasole, cioè una prova, una verifica. Se noi impariamo ad obbedire agli uomini, sapremo obbedire a Dio. Obbedisci ai tuoi genitori. Obbedisci ai responsabili che dicono certe cose per la tua vita, per incoraggiarti, per farti crescere. La fede è obbedienza. Punto 4. La fede è azione. La fede, quando noi ascoltiamo la voce di Dio e obbediamo, partiamo, andiamo. La fede è azione. Sul Rab si esprime Giacomo con queste parole. Leggiamo Giacomo 2,25. E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Qua sembra che Giacomo si sta un po' contraddicendo. Salvati per fede o salvati per opere? Non sta dicendo che siamo salvati per opere. Sta semplicemente dicendo, tu vuoi mostrare la tua fede? Mostrala agendo. Giacomo sta dicendo, non puoi stare fermo sulla sedia. Alzati. La fede ti fa alzare, la fede ti fa schizzare da un territorio all'altro. Vuoi dimostrare la tua fede? Agisci. Quindi sta dicendo le stesse cose, salvati per fede, conseguenza, azione. La fede è azione. Sapete, era il 2013, quando noi siamo venuti in chiesa, e venivamo da un periodo particolare dove io avevo cambiato lavoro, dove era nato il mio primo figlio e dove avevo vissuto anche uno spostamento e mi ero avvicinato qui, vivevo a Ruvo. E abbiamo deciso anche di seguire e di venire in questa chiesa per tanti motivi, perché sarebbe stato difficile e sarebbe stato complicato poter fare diversamente. Ma noi questa chiesa la conoscevamo dal 2002 e siamo andati dal pastore di Pinuccio. E abbiamo detto, pastore, noi vogliamo stare qui. Però ci siamo presi un tempo di riposo che fa bene a noi. Cioè noi ci vogliamo sedere un attimo. E il pastore ci ha detto queste parole. Il periodo di riposo, lo conosciamo, il periodo di riposo è buono, l'importante è che non duri molto. E io ricordo di aver detto a Enza, che parole sagge. Ma la domenica dopo, lui viene da noi e ci dice, è finito il tempo di riposo? Ok. Forse lui non ha compreso. Passa la seconda domenica e il pastore, come uno stalker, torna. Beh, è finito il tempo di riposo. E lui ci dice, ci lascia una parola, una frase che io voglio dire a voi oggi. Ci dice, voi non siete fatti per stare su una sedia. Tu non sei fatto per stare su una sedia. Perché la fede è azione. Dio ti sta chiamando ad alzarti e ad andare dove lui vuole. Non necessariamente all'estremità della terra, forse a casa tua. È la terza volta, torna da noi. E a un certo punto dico a Enza, non è un uomo che ci sta parlando. È Dio che manda un uomo, che manda il pastore, per parlarci chiaramente e dirci che noi dobbiamo agire, che noi non possiamo stare seduti. Quindi la quarta domenica andiamo noi. E lui ci dice, avete fatto bene a venire, stavo venendo io da voi. Grazie a Dio per una persona così. Grazie a Dio perché Dio insiste con noi. E ce lo ripete tante volte, io ve lo ripeto, tu non sei fatto per stare su una sedia, alzati. Alzati perché la tua famiglia ha bisogno di te. Alzati. Anche quando i tuoi figli, adolescenti o giovani, ti fanno avvelenare e non sai più che fare, e hai trovato tutte le strategie. Ragazzi, non ridete. Avete trovato tutte le strategie. Tutte. E non vanno, non funzionano. E stai male. Cosa posso fare per i miei figli? Vai a chiedere aiuto. Sembra che la situazione non decolli. Abbi fede, riponi fede in Gesù e non agire con le tue forze, ma con la forza di Dio nella tua vita. Fai come quel palloncino. Pum. Veloce. Ad Ariete, ma mandato da Dio, con la fede che Dio ti ha dato. Alzati per essere leader nella tua scuola. Ma come posso fare io a parlare nella mia scuola? Non lo so. Dio lo sa, io non lo so, io non ho soluzioni, ma Dio vuole fare qualcosa di speciale nella tua scuola. Come? Come quel palloncino. Il nostro salto è un salto nel vuoto, non sappiamo cosa c'è, ma Dio lo sa, affidiamoci a Lui. Dio vuole che tu faccia la differenza nel tuo lavoro, ma com'è possibile con tanta frustrazione che ho? Dio vuole darti di più nel lavoro che fai. Dio vuole darti di più con un nuovo lavoro. Affidati a Lui. Dio ti chiama per una nuova stagione qui a Modugno, per vedere salvezza, liberazione, guarigione, la potenza di Dio sprigionarsi sulle nostre vite. Come? Non lo so. Dio lo sa. Una cosa dobbiamo fare, avere fede e fare quel passo per andare oltre. La fede è azione. Agiamo, agiamo. Vogliamo vedere nuovi territori. Sono davanti a noi, non li vediamo con i nostri occhi, ma ci sono. Dio li ha preparati, ha preparato un territorio per ognuno di noi oggi. Prendiamolo, conquistiamolo, così come ha fatto Rab. Ha combattuto le sue paure per conquistare un territorio impossibile per la sua vita. Ultimo punto. La fede ci fa rimanere fermi in Cristo Gesù. E qualcuno potrebbe dire, è una contraddizione, adesso dobbiamo andare e ora ci dobbiamo fermare. In Ebrei 6 è scritto, rimanete fermi nella vostra confessione di fede. Ma ci sono due motivi. Rimanere fermi è metaforico. Significa, quando agisci, non sei tu che lo stai facendo, ma è Dio che muove la tua vita. Abbi fiducia in Lui e rimani fermo non nelle tue capacità, in quello che tu a un certo punto credi di saper fare. Rimani fermo in Cristo Gesù. Lui ha vinto e Lui vince le nostre battaglie e Lui ci porta verso nuovi traguardi. Ma ci parla anche di frustrazioni che possono avvenire nella nostra vita quando non vediamo subito degli obiettivi. Rimani fermo e non ti scoraggiare. Non sappiamo quanti giorni siano rimasti fermi nella loro casa, Rab e la sua famiglia. Fatto sta che le spie dicono, Rab, noi torneremo, non ti diciamo quando, tu devi stare in casa tua e devi appendere quella cordicella rossa. Non devi fare null'altro, stai ferma a casa, tu e la tua famiglia. Se voi sarete dentro casa, sarete salvi. Rimaniamo fermi nella confessione che Cristo Gesù è il nostro Signore e Salvatore. Quando le cose non vanno bene nei nostri gruppi, nella nostra famiglia, nella nostra vita ministeriale, ci sono due situazioni che possono creare tensione e possono creare stress. Le troppe cose che facciamo, e non stiamo parlando di questo oggi. La seconda è, forse io non sono capace, forse non sto facendo le cose nel modo migliore. Ed è buono che noi riflettiamo su come agire, ma ricordiamo che non dobbiamo buttarci addosso le nostre frustrazioni, non dobbiamo autocommiserarci, perché non siamo noi a cambiare le cose. È scritto in Ezechiele: tu vai, che loro credano o no, non ti interessare. Alziamoci, andiamo e non diamo troppa importanza a quello che non sta succedendo, perché nei luoghi celesti sta succedendo. Noi non lo vediamo, ma sta succedendo. Noi crediamo che questa chiesa crescerà e crescerà. Noi crediamo che nuove persone troveranno, incontreranno Dio e le incontreranno. Noi crediamo che quella promessa è per noi. L'unica cosa, sbandieriamo e teniamo lì in vista la cordicella rossa che ci rimanda. Io penso che quando quelle due spie hanno avuto quell'idea, si sono ricordate di quello che è avvenuto più di un secolo prima in Egitto, quando Dio disse: spalmate il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte, io porterò la morte dei primogeniti in Egitto, ma tutti quelli che avranno segnato, contrassegnato il sangue, saranno salvi. I primogeniti di quella famiglia saranno salvati, e tutti i primogeniti ebrei furono salvati da quella distruzione, da quella conseguenza. E dall'Egitto arriviamo a Cristo Gesù. A me piace ricordare ogni predicazione quello che ha fatto Gesù alla croce. Lui è morto per i nostri peccati. Rimaniamo fermi nella confessione di fede che Gesù Cristo è venuto per salvarci, liberarci, farci andare avanti. Agiamo consapevoli che è Dio che ci sta facendo andare, e rimaniamo fermi consapevoli che il nostro destino è in buone mani, perché è Cristo Gesù che lo conduce. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Io ho sentito in questi giorni una parola e ve la voglio dare. È quello che io sento, e parla di famiglia, parla di genitori che hanno difficoltà con i propri figli, genitori che vogliono vedere qualcosa ma non la vedono. Oggi Dio sta parlando alla vostra vita. I tuoi figli io li vedo, ma io ti voglio chiamare oggi per essere di influenza e di impatto sulla vita dei tuoi figli, ma loro non mi ascoltano. Poni fede in me, dice Dio, e ti ascolteranno. Poni fede in me e ti darò io le strategie. E voglio parlare a quei figli che hanno difficoltà nelle relazioni con i loro genitori, che non si sentono amati, che non si sentono capiti. Poni la tua fede in Dio e sii tu a fare il primo passo verso di loro. Vogliamo tenere gli occhi chiusi. Se tu senti che hai bisogno di questo tocco, e se tu vuoi vedere per fede quello che Dio ha e ha stabilito per la tua famiglia, alza la tua mano. Grazie. Nessuno ti sta vedendo, ma Dio ti sta vedendo. E nel nome di Gesù noi dichiariamo sconfitta ogni paura. Io prego che nel nome di Gesù il cuore dei genitori possa incontrare il cuore dei figli, e il cuore dei figli possa incontrare il cuore dei genitori. Dove c'è mancanza di comunicazione, dove ci sono incomprensioni, dove i genitori vedono i figli alla deriva, dove i figli vogliono rinsaldare relazioni con i propri genitori, Dio ti sta chiamando per portare cambiamento nella tua famiglia. E voglio pregare anche per tutti quelli che vedono davanti a sé territori, in modo particolare persone che hanno ricevuto da Dio promesse e che a un certo punto sono venuti meno e hanno detto: questa promessa non è per me. Ho persone che hanno davanti a loro sfide e nuovi territori da conquistare, ma ci sono delle paure. Se hai delle paure, alza la tua mano e confessiamo per fede che Dio è vincitore. Sapete, ci sono delle paure anche nella mia vita quando Dio mi chiama ad andare oltre. Grazie per queste mani. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, noi oggi vogliamo combattere la paura. Vogliamo camminare per fede e vogliamo andare oltre. Ci vogliamo far trasportare da te, Gesù, non dalle nostre capacità, non dalle nostre opere. Vogliamo guardare te. Grazie, Padre. E sento di pregare anche per le malattie. Forse sapete, è stato detto domenica sera, domenica mattina alla fine dell'incontro c'era Maria, non so se la conoscete, si è sposata qualche giorno fa e aveva un problema, non riusciva a camminare, era bloccata. Noi abbiamo pregato, non c'è nulla che possa provenire dalle nostre preghiere e dalla nostra capacità, è Dio che opera e che agisce. Abbiamo detto: adesso alzati. E quando ha iniziato ad alzarsi e a camminare, io mi ricordo la sua parola: non ci credo, e faceva così, non ci credo, e camminava. Umanamente delle volte perdiamo fiducia, viviamo arroccati nelle nostre paure che Dio non può operare. Dio agisce, se Lui vuole può, e Lui può. Dio agisce. Se hai una malattia e oggi vuoi pregare, alzati in piedi, dovunque ti trovi. Io vorrei che adesso possiamo aprire i nostri occhi e vedere le persone che sono alzate per andare a pregare. Chi sente di mettere, anche chi è più vicino, di mettere una mano vicino alla spalla di questi fratelli, di queste sorelle, delle persone che si alzano in piedi. Io voglio in modo particolare parlare a chi sta avendo ultimamente mal di testa e non conosce l'origine e sta combattendo mal di testa e mal di stomaco. C'è qualcuno? Non sai l'origine, grazie, non sai l'origine. Dio oggi ti vuole guarire. Non sai più come fare. Stai dicendo: io sto pregando ma non vedo nulla. Dio è all'opera. Abbi fede, abbi fede. Se c'è qualcun altro che si vuole alzare per andare a pregare perché si è alzato, è una cosa buona. Incoraggiamoci l'un l'altro. Nel nome di Gesù noi proclamiamo vittoria. Nel nome di Gesù noi proclamiamo guarigione sulla vita nostra, sulla vita dei miei fratelli e delle mie sorelle. Guarigione nel nome di Gesù. Se c'è qualcuno che ha paura di ammalarsi, può alzare la sua mano. Stai vedendo delle persone intorno a te che stanno male e tu hai paura di ammalarti. Nel nome di Gesù, via ogni paura. Stiamo combattendo con fede. Dio è grande, fa la differenza. Dio è grande, cambia. Dio è grande, guarisce. Amen.